La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 26. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. L'articolo 26 riguarda un'altra garanzia della giurisdizione, che è l'estradizione. Estradizione è un istituto tipicamente giuridico che riguarda la possibilità che un cittadino sia giudicato all'estero per fatti commessi all'estero. Facciamo un esempio per capirci. Mi può capitare di aver rubato in Francia, quando io torno in Italia, l'autorità giudiziaria francese chiederà all'Italia di estradarmi, cioè di rimandarmi in Francia per essere giudicato. Qual è la garanzia? L'estradizione del cittadino può essere consentita solo ove prevista da convenzioni internazionali. Quindi serve innanzitutto un rapporto, una convenzione, un accordo fra i diversi stati affinché possa avvenire l'estradizione. È una garanzia del cittadino anche perché negli anni ci sono stati casi molto importanti in cui c'era estradizione rispetto a paesi che prevedono la pena di morte. Perché noi sappiamo che in Italia la pena di morte è assolutamente vietata dall'articolo 27 e quindi anche qui in via applicativa sono state date garanzie che l'estradizione è possibile solo ove non si applichi la pena di morte. Questa è una garanzia del cittadino. Il secondo comma dell'articolo 26 invece non ammette in nessun caso l'estradizione per reati politici. Reati politici sono i reati che riguardano la gestione di uno Stato, ovviamente di uno Stato estero, ma questa garanzia riguarda non solo i cittadini italiani ma anche gli stranieri. Infatti il testo costituzionale, mentre al primo comma riguarda l'estradizione del cittadino, al secondo non ha soggetto, non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. Che cosa? L'estradizione. Quindi una garanzia rispetto all'estradizione sia dei cittadini sia degli stranieri.